L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Parlammo qualche mese fa, in giugno per l'esattezza, della First Siena Solution Conference, ovvero la prima conferenza internazionale del network ONU per lo sviluppo sostenibile, che in area mediterranea ha il suo centro studi di riferimento nella Università di Siena, con la direzione scientifica del rettore dell'Università, Angelo Riccaboni. Furono presentati, ne parlammo anche allora, alcune proposte pratiche subito applicabili, tra cui il progetto Plastic Busters, gli acchiappa plastica, insomma, che proponeva, questo progetto in particolare, l'allestimento di un'imbarcazione con ricercatori e adeguata strumentazione scientifica che acchiappasse per l'appunto le plastiche nel mar Mediterraneo, mappandone la diffusione, studiandone gli effetti sugli animali marini, per poi progettare come ridurre la presenza di questi rifiuti. Ecco, la proposta arrivava proprio dall'interno, cioè era stata formulata all'interno dell'Università di Siena, e in questi mesi ha preso corpo anche grazie alla Marina Militare Italiana, che tra l'altro è impegnata nella campagna idrooceanografica 2013. È partita in settembre la prima missione dei Plastic Busters, se ne parliamo anche qui su Radio 24, è partita sulla Amerigo Vespucci. Allora parliamo di questa prima missione, ma anche di quelle che sono arrivate dopo, con Maria Cristina Fossi, che è professore associato in ecologia all'Università di Siena. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E con il capitano di vascello Curzio Pacifici, comandante della Amerigo Vespucci. Benvenuto anche a lei. La ringrazio, buongiorno a tutti, buonasera. Professoressa Fossi, intanto le chiedo, ho ricapitolato bene l'idea di questo progetto che state portando avanti? Direi perfettamente, forse molto meglio di quanto avrei potuto fare io, quindi mi complimento per la sintesi e per la specificità della descrizione. E, entrando subito nella questione specifica, appunto il progetto che, come appunto lei ha descritto, nasce sotto l'ombrello delle Nazioni Unite e vede appunto in questi primi mesi le sue fasi preliminari, ha avuto la fantastica opportunità di iniziare il primo monitoraggio del santuario Pelagos, quindi l'unica area marina protetta pelagica del Mediterraneo, grazie a questa fantastica collaborazione che è iniziata fra la Marina Militare e l'Università di Siena. In particolar modo, appunto, proprio tre settimane fa abbiamo avuto l'opportunità di imbarcare 4 ricercatori dell'Università di Siena nell'Amerigo Vespucci, che è appunto la nave simbolo della Marina Militare, definita una fra le navi più belle del mondo, e io confermo, essendoci stata a bordo. Abbiamo avuto questa opportunità di percorrere un tratto di mare fra Livorno e Tolone, e durante questo tragitto realizzare uno dei primi campionamenti di microplastiche nell'area del santuario Pelagos. Il dato più interessante è, oltre che ovviamente sottolineare l'importanza del dual use, che sottolineerà successivamente sicuramente il capitano Pacifici. Non mi rubi spazio, capitano. E appunto questa cosa. E il dato interessante è che abbiamo rilevato una notevole presenza di microplastiche, quindi di questi minuscoli frammenti di plastica che derivano dalla degradazione dei grossi frammenti di plastica nelle aree più lontane dalla costa. L'alto mare, le aree pelagiche, quelle quindi popolate dai cetacei che il santuario Pelagos protegge. Questa prima missione che avete compiuto con la Vespucci era, diciamo, area Livorno-Tolone, questa era la rotta, sì, avevo letto. Sì, area Livorno-Tolone, siamo riusciti a fare esattamente 7 campioni, 2 in area costiera, una proprio a Livorno e una a Tolone, e gli altri 5 nelle aree pelagiche, in aree proprio di profondità intorno a 2000 metri, quindi ovviamente molto lontani dagli impatti antropici. Questo cosa vuol dire? Che se queste microplastiche sono presenti in concentrazioni molto elevate in quest'area, vuol dire che c'è un processo di frammentazione delle plastiche e un movimento delle correnti che trasporta questi rifiuti antropici in aree molto lontane dalla costa, provocando quindi conseguenze negative non solo sugli organismi che popolano le nostre coste, ma anche gli organismi che vivono in alto mare, il che ovviamente mette la situazione in un campanello d'allarme ancora più grave di quello che si poteva pensare. Comandante, allora veniamo un po' a questa appunto collaborazione con, in questo caso, l'Università di Siena, ma quest'anno la Marina Militare ne ha tante in campo di collaborazioni, come mai? Certamente, perché diciamo un po' questa nuova rotta della Marina Militare, la volontà di essere sempre più vicino all'ambiente, all'educazione e alla solidarietà, e quindi abbiamo questa attività cosiddetta di dual use, ovvero sia di impiegare mezzi, risorse, i nostri uomini in quello che è non soltanto scopi militari ma anche civili e soprattutto scientifici. E allora questa attività svolta con l'Università di Siena è proprio una parte fondamentale di questa impiego dual use, dove è stata impiegata la nave Vespucci che, come ha detto la professoressa Fossi, è una nave che per eccellenza si presta all'educazione e alla formazione dei giovani, e in questo senso abbiamo, in occasione di una navigazione già pianificata da Livorno a Tolone, abbiamo imbarcato la professoressa con altri ricercatori, in quattro in tutto, per tre o quattro giorni, con due giorni di navigazione, e in questa navigazione abbiamo sfruttato anche l'occasione che erano presenti a bordo dei giovani della, ecco, questo le volevo chiedere, perché ho letto navale, infatti, che non eravate soli. Ho contribuito a quello che è stato i vari attività scientifica svolta dai ricercatori. Abbiamo fatto, come ha accennato la professoressa, sette prelievi, e non per ultimo abbiamo continuamente verificato e ricercato eventuali plastiche in galleggiamento lungo la superficie nel corso della navigazione. Professoressa, mi ricordo che lei ci aveva già anticipato quando ci sentimo per la prima missione, quindi stavate per partire con l'Amerigo Vespucci, che in queste occasioni, perché poi ce ne sono state altre, poi continuiamo a parlarne, avreste messo anche a punto il sistema, nel senso che voi avevate l'idea, avevate il progetto, avevate tutto, però bisognava anche testarlo sul campo. Siete riusciti ad avviare questo discorso? Sta andando bene? Sì, allora, in questa prima fase ci siamo focalizzati fondamentalmente proprio sulla tecnica di campionamento e successiva analisi dei campioni delle microplastiche, e questa tecnica che già avevamo, diciamo, iniziato nell'anno precedente con un finanziamento del Ministero dell'Ambiente è stata ulteriormente validata in questa diciamo prima crociera oceanografica compartita con la Marina Militare. Quindi sicuramente questo aspetto ci ha consentito anzi di ampliare, diciamo, gli obiettivi, perché oltre a prendere questi campioni per la quantizzazione delle microplastiche, la quantizzazione degli inquinanti che le microplastiche trasferiscono agli organismi del plancton, abbiamo aggiunto una nuova tentativo di indagine, che è quello di cercare di prendere dei campioni per indagare quanto queste plastiche e microplastiche possano trasportare agenti patogeni da una parte all'altra del Mediterraneo, che è un tema, diciamo, del tutto nuovo, del tutto non studiato, e che vorremmo sicuramente introdurre nel progetto generale Plastic Buster, che appunto poi dopo avrà altri livelli di sviluppo una volta compiuta, sì, questa fase. Infatti, allora, diciamo, per quanto riguarda la collaborazione possiamo con la dire, Marina, ecco, Militare, allora l'Amerigo Vespucci è stata la prima fase, la seconda è stata svolta la settimana scorsa in collaborazione con la nave idrografica Magnaghi, e anche lì siamo riusciti a raccogliere otto campioni più in zone costiere, in particolar modo nelle aree costiere della Liguria, e anche lì purtroppo perché non è una situazione piacevole, abbiamo riscontrato elevate concentrazioni di microplastiche. L'ultima attività che svolgeremo quest'anno in collaborazione con la Marina sarà la prossima settimana con la nave idrografica Galatea. In tutte queste campagne uno degli obiettivi è anche vedere, fare un, diciamo, una sorta di censimento delle popolazioni di cetacei che incontriamo durante la rotta, ed eventualmente, laddove possibile, raccogliere anche campioni di biopsie cutanee con una tecnica non letale, completamente non invasiva, che consente di fare la diagnosi ecotossicologica dello stato di salute di questi animali. Comandante, senta, lei è entrato in Marina, immagino, non per fare lo scienziato, però come si trova in questo ambiente adesso che è cambiato? No, mi trovo benissimo, perché di fatto è proprio un po' la nostra natura quella di essere sempre flessibili, sempre aperti a quello che possono essere nuove rotte che abbiamo. E in questo senso appunto la Marina ha iniziato adesso con l'Università di Siena, ma pur sempre è da anni che è sempre sensibile alla tutela dell'ambiente, tant'è che nelle nostre missioni secondarie abbiamo sempre la ricerca, la scoperta della cetacei, della fauna marina, degli eventuali possibili inquinamenti, e adesso non per ultimo questi addensamenti di plastiche che insieme alla professoressa Fossi stiamo cercando sempre di localizzare per poi mappare nell'ambito del nostro piccolo Mare Nostrum del Mar Mediterraneo. Senta, lei ha anche una... Prego. Un altro aspetto fondamentale, come diceva appunto la professoressa, il motto dell'unità è non chi comincia ma quel che persevera. Una frase leonardiana che ben si attaglia alla realtà qui di formazione dei giovani. E dicevo, un altro aspetto fondamentale è quello anche di sensibilizzare proprio i più giovani, il personale che viene anche soltanto in visita a bordo quando siamo nei porti, eccetera, proprio sensibilizzarlo a questo rispetto dell'ambiente che troppo spesso negli anni è stato un po' dimenticato. Senta, lei ha anche un'esperienza diretta lunga nel Mar Mediterraneo sicuramente. Come l'ha visto, proprio, ma anche non appunto da scienziato che magari col microscopio va a rilevare certe cose, ma proprio come l'ha visto cambiare negli anni? Diciamo, in 30 anni di navigazione, devo dire, nella mia esperienza in marina, devo dire che negli anni si è avuto un certo degrado, una cattiva attenzione da parte degli utenti, da parte delle varie marine che l'attraversano, ma anche da parte del singolo cittadino che non pensa che soltanto anche una cicca buttata in mare ha un effetto devastante nell'ambiente. Quindi quello che ritengo fondamentale sia, parlando anche con la professoressa, proprio quello di educare, di sensibilizzare i giovani a questa attenzione e questa tutela dell'ambiente. Senta, ho visto appunto, lei ci ricordava prima che insieme alla professoressa e alla sua equip c'erano anche altri giovani che hanno partecipato, ma come si fa a salire a bordo della Vespucci o comunque di una nave militare che fa un'operazione di questo tipo? Dunque, diciamo, l'operazione questa con l'Università di Siena era in contemporanea di altre attività che stavamo svolgendo, quindi proprio per la flessibilità stessa delle navi militari si riesce a fare differenti missioni contemporaneamente. Lo scopo fondamentale dell'unità è quello di imbarcare gli allievi dell'Accademia Navale per la loro campagna di istruzione nel periodo estivo. Vi sono però dei periodi di pre-campagna o di post-campagna, come è successo adesso in occasione di una regata che si svolgeva da Tolone alla Spezia, che sono stati imbarcati anche degli altri dei giovani della Lega Navale Italiana, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ed altre associazioni mirate al mondo velico, al mondo marittimo, che hanno appunto questa opportunità come premio, come quasi borsa di studio, di poter effettuare una navigazione di 10-15 giorni di imbarco a bordo di questa unità. Direi che per il momento ci dobbiamo fermare qui, ci ritroviamo tra pochissimo con il rettore dell'Università di Siena, Enrico Boni, proprio per parlare di come stanno andando avanti le altre proposte anche della First Siena Solution Conference. Io ringrazio intanto i nostri ospiti, ricordo Maria Cristina Fossi, professoressa di Ecologia all'Università di Siena, capitano di vascello Curzio Pacifici, comandante dell'Amerigo Vespucci. Buon lavoro e a risentirci presto. Grazie mille a voi. E a questo punto diamo il benvenuto al rettore della Università di Siena, Angelo Riccaboni. Benvenuto. Buongiorno a lei, suoi ascoltatori. Dunque, abbiamo sentito come stanno andando le cose nel progetto Plastic Busters. Io credo che questo per lei sia un motivo di soddisfazione, aver trovato anche la collaborazione della Marina Militare. Certo, un bellissimo esempio di collaborazione fra istituzioni. La Marina Militare è stata molto disponibile. C'è stata anche questa cosa molto, molto bella dell'Amerigo Vespucci, che è l'orgoglio di tutta quanta l'Italia, quindi aver cominciato in quel modo è il modo migliore possibile, e quindi siamo sicuri che con quella collaborazione l'iniziativa andrà avanti con successo. Ci sono però anche altri progetti che furono presentati proprio nel corso della First Siena Solution Conference. Come stanno andando le cose invece per gli altri, visto che voi avete appunto la direzione scientifica, lei in particolare, e l'Università di Siena è il centro di coordinamento per le soluzioni del Mediterraneo? Sì, questo è un progetto molto, molto articolato, molto complesso, anche tra l'altro ha avuto un bellissimo boost, una bellissima spinta recentemente, perché c'è stato un evento speciale presso l'Assemblea Generale dell'ONU dove è stato ribadito che nei prossimi anni si lavorerà sui Sustainable Development Goals, e uno degli obiettivi del nostro network è proprio quello di promuovere la discussione sui nuovi obiettivi che si porranno paesi, istituzioni, ONG per affrontare i temi dello sviluppo sostenibile. Questa è una notizia molto, molto importante, perché come abbiamo visto a fine settembre l'ONU ha ripreso una centralità che era da qualche tempo che mancava. quindi in un contesto così, così complesso ma anche così affascinante, noi siamo uno dei centri leader a livello globale, e il Plastic Buster è l'iniziativa diciamo più visibile. Nel frattempo appunto ci sono altre iniziative che riguardano per esempio l'agricoltura sostenibile, riguarda un rapporto fra imprese e sostenibilità sulla quale si sta lavorando molto intensamente. Ricordo agli ascoltatori che appunto stiamo parlando di progetti che non interessano esclusivamente l'Italia, ma tutti i paesi che fanno parte della regione mediterranea, quindi sono progetti molto ampi. Sì, sì, perché appunto questo progetto che ha voluto proprio Ban Ki-moon ed è coordinato da Jeffrey Sachs di Columbia University, è articolato in regioni, nella regione del Mediterraneo. Noi stiamo coordinando una serie di iniziative e confrontandoci naturalmente anche con il nostro governo, in particolare sia con la Presidenza del Consiglio ma anche con altri ministeri, in primis il Ministero dell'Università, per attivare i progetti che nei prossimi anni saranno oggetto della nostra attività. Sa che, adesso giusto in conclusione, ma avete trovato un periodo particolarmente difficile per le regioni del Mediterraneo, perché comunque, oltre ai temi della sostenibilità, stiamo affrontando tante altre difficoltà. È vero, è verissimo questo. Vorrei ricordare che quando abbiamo fatto l'evento a luglio c'erano rappresentanti comunque di 18 dei 21 paesi, quindi la risposta è stata comunque ottima. È anche vero però che è proprio nei momenti di difficoltà che occorre essere presenti, perché si creano dei legami, si creano dei rapporti che poi quando le cose si sistemeranno potranno essere ancora più forti. Quindi credo che sia importante sottolineare questo aspetto. L'Italia deve avere un ruolo nel Mediterraneo. Purtroppo in questo paese l'abbiamo sempre un po' trascurata questa cosa, i paesi sono fortissimi, ci sono dei segnali che dimostrano che questo governo si sta impegnando anche in questo. Grazie, Rettore dell'Università di Siena Angelo Riccaboni, ci risentiamo prossimamente appunto via via che avanzano i vostri lavori. A risentirci. Grazie a lei. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.